Container, l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. La logistica in Italia produce circa il 7% del PIL nazionale. Si tratta perciò di un settore particolarmente importante per l'economia. Per evitare costosi gap e recuperare competitività sul piano internazionale, bisognerà puntare sulla digitalizzazione, che permette di ridurre i rischi, di attuare pratiche più economiche e di salvaguardare l'ambiente. Veicoli connessi, infrastrutture intelligenti, industria 4.0, da qui ai prossimi anni saranno quindi parole chiave per la logistica e per i trasporti. Non solo tecnologia, però, ci sarà bisogno anche di personale sempre più qualificato in grado di governare i nuovi modelli dell'era digitale. Questi i temi al centro dell'ultima assemblea annuale di ANITA, l'Associazione del Trasporto e della Logistica di Confindustria, che ha fatto il punto sulle principali sfide del settore in un momento di profondo cambiamento. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E benvenuto futuro è il titolo dell'assemblea organizzata qualche settimana fa a Venezia da ANITA, una delle principali associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto e della logistica. Tante le tematiche affrontate nel corso dell'assemblea, a partire dalle nuove regole per l'autotrasporto che arrivano dall'Europa, regole che fanno temere una fase di liberalizzazione incontrollata. Ascoltiamo il neoeletto presidente di ANITA, Thomas Baumgartner. Sì, effettivamente per ora si trattano solo delle proposte che la Commissione ha fatto, però noi già intravediamo queste proposte fatte dei rischi per il settore del trasporto italiano e non solo, perché sappiamo che il divario dei costi tra conducenti dei vettori dei paesi dell'est e quelli italiani è enorme e quindi una liberalizzazione, così come proposta dalla Commissione europea, di fatto sarebbe avrebbe degli effetti devastanti per il nostro settore. Per quanto riguarda il dumping sociale, sappiamo già oggi che secondo le attuali regole autisti girano per l'Europa come dei nomadi, riposano solo sulle cabine, sono via da casa anche per settimane fino a un mese, e anche in questo caso la Commissione ha proposto delle misure che vanno a favore di questo nuovo sistema di nomadi. E noi siamo contrari a queste nuove misure e chiediamo appunto che il governo faccia di tutto per far sì che le regole non vengano cambiate. Presidente Baumgartner, l'assemblea di ANITA l'ha riconfermata alla guida di questa associazione per i prossimi 3 anni. Quali saranno gli obiettivi da perseguire in questo periodo, che sarà un periodo importante per l'autotrasporto italiano, vuoi per le novità che arrivano dall'Europa, ma vuoi anche per tutte le novità tecnologiche che stanno arrivando su questo settore? In primis, ovviamente, noi dovremo anche per il futuro stare attenti affinché il nostro settore non venga sottomesso dalle nuove regole che la Commissione europea vorrebbe mettere sul mercato. Dobbiamo e vogliamo rimanere competitivi e fare il nostro lavoro nella logistica italiana ed europea. Secondo, comunque, siamo consci che anche nel nostro settore ci sarà la logistica 4.0, non esiste industria 4.0 senza logistica 4.0, ci sono le innovazioni che vengono avanti e anche l'Italia dovrà adeguarsi al futuro nel campo tecnologico che ci aspetta. Benvenuto futuro è stato il titolo di questa parte pubblica dell'assemblea, un titolo che già fa capire chiaramente quali saranno le evoluzioni future del mondo dell'autotrasporto. Si è parlato tanto di nuove tecnologie, ma si è parlato soprattutto di automazione e guida automatizzata. Le imprese di autotrasporto e di logistica italiane sono pronte a questa grande sfida? Noi abbiamo voluto proprio fare questo evento per sollecitare le imprese, i nostri associati a queste nuove sfide. Sappiamo che arrivano e sono anche sfide interessanti perché permetteranno al nostro settore di avere mezzi sempre più sicuri, perciò aumenterà la sicurezza sulla strada. Sono mezzi che con le nuove tecnologie, come per esempio il platooning, permetteranno ulteriori abbattimento delle, impatto ambientale, anche questo va bene che lo si porti avanti. L'automazione, la guida automatizzata è bene per tutti, perché il fattore umano è sempre ancora il fattore più rischioso nel traffico stradale, perciò siamo solo favorevoli a queste nuove tecnologie. Io credo che l'Italia e i vettori, gli imprenditori italiani siano pronti ad accettare la sfida e sono capaci anche di investire, di rinnovare i propri parchi proprio per poter reggere le nuove sfide. Veicoli automatizzati, ma anche infrastrutture automatizzate. Non a caso a Venezia, nel corso dell'assemblea pubblica, sono stati presentati anche gli studi di fattibilità, i progetti per le smart roads italiane, a partire da quella dell'ANAS, la ex Salerno-Reggio Calabria, che adesso si chiama Autostrada del Mediterraneo, e che dovrà diventare appunto la prima smart road italiana completamente infrastrutturata e telematica. Quindi in qualche modo tutto il mondo dei trasporti, tutta l'intera filiera si deve muovere verso questa direzione. Esattamente, i veicoli saranno sempre più interconnessi tra loro, anche i veicoli saranno interconnessi non solo con i nostri committenti per gestire gli slot di carico e scarico della merce, ma i veicoli saranno anche sempre di più interconnessi con le infrastrutture. Questo è importante perché sappiamo che le infrastrutture hanno un limite, con l'interconnessione con l'infrastruttura si possono gestire meglio i flussi di traffico, si possono evitare ingorghi, intasamenti e così via, e soprattutto anche la sicurezza, che può soltanto aumentare. Perciò siamo ben contenti che in Italia si abbia messo in campo questo esperimento sul Reggio Calabria Salerno e aspettiamo con favorevolmente i primi esperimenti, perché vorremmo proprio partecipare a questa interessantissima sfida. Su tutto c'è poi il tema dei controlli. Noi come trasportatori accettiamo tutte le regolamentazioni possibili, sia per la sicurezza sulle strade, sia per meno impatto ambientale, sia per tutte le altre regolarità fiscali, contributivi che necessitano. Siamo i primi ad essere interessati. Importante è che tutti i vettori siano sottoposti a osservare le normative come si deve, per questo siamo soltanto favorevoli per quanto riguarda i controlli. I controlli servono anche perché possiamo migliorare la sicurezza sulle autostrade e sulle strade. Noi siamo i primi imprenditori interessati affinché i nostri veicoli non subiscano, non abbiano incidenti, perché è solo un costo non solo economico ma soprattutto anche sociale e umano, e per questo siamo ben favorevoli che la polizia stradale, come del resto ha fatto anche in passato, faccia i suoi compiti, i controlli, affinché tutti rispettino le regole. Chiediamo, e sappiamo che la polizia stradale fa molto anche per quanto riguarda il fenomeno dei furti, delle rapine, abbiamo in collaborazione con l'autostrada creato l'osservatorio su questo fenomeno, dal quale ci aspettiamo veramente un intervento massiccio, in modo che anche da questo punto, da questo aspetto, abbiamo delle strade più sicure per la merce, per i nostri artisti, per i nostri mezzi. Le conclusioni dei lavori di Benvenuto Futuro a Venezia sono state affidate al ministro dei trasporti Graziano Del Rio. Ascoltiamo una parte del suo intervento. Come sapete, la parola logistica è così poco apprezzata nel nostro paese, così poco politica, oserei dire. La politica non è stata mai abituata a parlare di logistica. Il fatto di aver messo insieme gli operatori e di aver messo insieme gli studi che dimostrano che la logistica ha un impatto enorme sull'economia del nostro paese, oltre 110 miliardi di euro, il 7% del PIL, quindi stiamo parlando di una questione che dovrebbe essere prioritaria nelle agende, diciamo, dei decisori politici e non solo. Il fatto di avere cercato di far capire l'impatto che la logistica ha per la competitività complessiva del paese, lo studio che abbiamo commissionato al Politecnico ci ha dimostrato, e l'abbiamo visto anche nei tavoli che abbiamo recentemente fatto insieme e che voi avete dimostrato di apprezzare, oltre che di contribuire in maniera decisiva a far crescere. In quei tavoli abbiamo visto che c'è un'efficienza logistica che rasenta cifre da capogiro, a seconda delle stime, dai 20 ai 30 miliardi addirittura. Quindi stiamo parlando di settori in cui il protagonismo degli operatori è assolutamente decisivo.